2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questa è una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 e poi naturalmente come sempre in podcast. Dunque iniziamo da alcuni numeri che riguardano la diffusione della banda larga. La nuova classifica trimestrale di Akamai, che misura la velocità della rete internet nei paesi dove questa società è attiva, questa è una società che eroga servizi prevalentemente per il mondo video, ma non solo, anche per chi eroga contenuti e fa in modo che questi contenuti arrivino in modo più sicuro e veloce a chi li richiede. Tuttavia, questa è una società appunto che ha tanti server sparsi per il mondo e quindi riesce a misurare la velocità della rete internet. L'aggiornamento di questa classifica ci piazza ancora all'ultimo posto fra i paesi europei. Allora, la velocità media delle connessioni in Italia, secondo questa ricerca, che secondo gli esperti del mercato è sicuramente affidabile, allora ci assegna 6,4 megabit al secondo. Il nostro, tra l'altro, è l'unico paese dell'Unione Europea ad avere meno del 10% di linee in grado di superare i 10 megabit. Allora, siamo all'8,7%, quindi pochissime delle linee diffuse nel nostro paese riescono ad andare a velocità considerate ultra broadband, più di 10 megabit. La Francia è al 20%, noi 8,7%, la Francia è al 20%, la Germania al 34%, la Gran Bretagna al 41%, in testa alla classifica ci sono la Svizzera e l'Olanda al 60%, seguite da Romania, pensate, Romania 57%, Svezia e Belgio al 53%. Insomma, per diffusione della rete internet, ma anche per velocità della rete internet, ci battono tutti. Noi sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che il nostro piano per aumentare la diffusione delle connessioni in Italia e per aumentare anche la velocità, piano che in buona parte è finanziato dal governo, poi gli operatori di telecomunicazioni stanno facendo alcuni pezzettini soprattutto nelle grandi città. Allora, questo piano è in ritardo, però la notizia positiva è che proprio alla fine di questa settimana la Corte dei Conti ha approvato la delibera del CIPE, che era stata approvata in un Consiglio dei Ministri all'inizio di agosto, che stanzia 2,2 miliardi di fondi europei per il piano banda larga. In totale il governo ha detto che ce ne sono circa 6 di miliardi, però per il momento gustiamoci questi 2,2. Però attenzione, per quest'anno non ci sono soldi, verranno stanziati a partire dal prossimo anno pochi, 40 milioni, poi ce ne saranno 350 nel 2017 e nel 2018, 400 milioni nel 2019, 450 nel 2020-2021 e anche nel 2022, 160 milioni, quindi questo piano sicuramente si protrarrà ben oltre il 2020, che era uno degli obiettivi dell'agenda europea. Poi bisognerà vedere che cosa succederà con gli altri soldi che sono stati annunciati, perché per erogare quest'altra tranche di denaro servono altri provvedimenti legislativi. Va detto che questi 2,2 miliardi sono destinati alle zone cosiddette a fallimento di mercato, quindi dove gli operatori non investirebbero. E qui si presenta il problema che il vero rischio è che nei prossimi anni a rimanere senza una buona connettività saranno quelle zone che sono a metà strada tra il fallimento di mercato e invece il mercato vero e proprio, perché gli operatori, abbiamo sentito anche recentemente, hanno piani abbastanza interessanti per le zone popolate dove c'è mercato, dove quindi gli utenti chiedono banda. Nelle zone a fallimento di mercato abbiamo capito che il governo in qualche modo sta intervenendo, e sono quelle zone che sono molto popolate, quindi magari paesi dove c'è benessere diffuso in tutte le parti d'Italia, che potrebbero rimanere a secco e doversi accontentare ancora per molti anni di connettività molto molto poco performante. Allora, a proposito di banda, dopo Telecom Italia anche Vodafone ha annunciato un accordo con Netflix per inserire nella propria offerta il servizio di streaming video, che dovrebbe iniziare ad essere operativo anche in Italia dalla metà del mese di agosto. L'accordo con Telecom, già annunciato alla fine di luglio, prevedeva di inserire Netflix all'interno di Team Vision. Allora, va detto, giusto per ridimensionare l'entusiasmo che c'è nei confronti dell'arrivo di Netflix, perché molti operatori dicono: ah, adesso arriva Netflix, chissà che cosa succederà. Allora, naturalmente questi servizi sono molto sensibili all'offerta di contenuti. Allora, va detto che per qualche anno Netflix non avrà moltissimi contenuti interessanti, perché molti dei contenuti che sono prodotti dalla stessa Netflix, come ad esempio House of Cards, sono stati già venduti e ceduti ad altre piattaforme. Quindi per alcuni anni sicuramente l'offerta di Netflix non sarà eccezionale, però si parte pian pianino e poi si decolla. Comunque seguiremo il mercato e questo è sicuramente un arrivo molto importante, molto interessante. Un approfondimento che potrebbe che potremmo fare nelle prossime settimane riguarda il software delle automobili, partendo dallo scandalo, dalla truffa Volkswagen, ma per estendere a tutto un sottobosco di software anche pirata che già oggi è disponibile sul mercato. Si possono piratare le centraline, bisogna stare molto attenti, però è un mercato che è cresciuto negli ultimi anni, quindi sicuramente un approfondimento potremmo dedicarlo nelle prossime settimane. Oggi però dedichiamo i nostri approfondimenti principali alla tecnologia e all'agricoltura. Abbiamo realizzato questa parte di 2024 dallo spazio Emilia-Romagna in Expo. L'ascolteremo più tardi, adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. A proposito di connettività, Deutsche Telekom e Inmarsat, che è una società specializzata in connettività satellitare, molto usata ad esempio nel settore marittimo, queste due società, quindi Deutsche Telekom e Inmarsat, hanno annunciato l'avvio di un'offerta destinata alle compagnie aeree per fornire connettività a bordo degli aerei in Europa. Il servizio partirà il prossimo anno, il network è un misto fra satellite ed LTE 4G e sarà un 4G particolare perché le antenne destinate a questo servizio avranno una copertura di circa 80 km, che è molto più ampio rispetto al 4G terrestre, e saranno in grado di trasmettere fino ad un'altitudine di 3000 metri, quindi diciamo nella parte bassa quando si sale, quando si scende con l'aereo ci si connette al 4G e quindi di fatto si fa un passaggio dal 4G tradizionale a questo tipo di 4G e poi si passa al satellite. Negli Stati Uniti c'è invece una rete terrestre diversa, proprio dedicata a questo tipo di servizio, che spara il segnale in cielo in modo da essere ricevuto da particolari antenne posizionate nella pancia degli aeroplani. Digital News. Mentre Google si prepara per martedì 29 ad un evento in cui dovrebbero essere presentate alcune novità a partire dal prossimo smartphone Nexus, o i prossimi smartphone Nexus, vedremo, Apple inizia proprio in questo fine settimana le vendite del nuovo iPhone 6S e anche la versione Plus. Ricordiamo che nel primo gruppo di paesi non c'è l'Italia, che dovrà attendere qualche settimana, però è disponibile in Francia, in Germania, quindi abbastanza vicino. Da segnalare anche l'annuncio atteso per il 1 ottobre di un nuovo telefono, un nuovo smartphone di LG, che ha una particolarità, vedremo se sarà interessante, che ha un doppio display nella parte frontale, quindi non ha un display davanti e dietro come abbiamo visto in alcuni casi, ha un doppio display davanti. Vedremo se sarà novità oppure da catalogare come curiosità. Instagram ha raggiunto quota 400 milioni di utenti attivi ogni mese e sulla piattaforma, pensate, vengono pubblicate e condivise ogni giorno 80 milioni di fotografie. Instagram è di proprietà di Facebook dal 2012 e da poco vende pubblicità che si vede, si visualizza durante lo streaming di fotografie, quindi un altro tassello nel ricco menu pubblicitario di Facebook. Digital News. A proposito di Facebook, da questa settimana sul social network più grande al mondo vengono pubblicati i primi video a 360 gradi, sono girati con apposite set di videocamere, si possono vedere anche sullo smartphone e mentre si vede il video e si gira lo smartphone grazie all'accelerometro che c'è dentro lo smartphone, il video cambia prospettiva perché è a 360 gradi. Naturalmente si tratta di video pensati per l'era della realtà virtuale che dovrebbe iniziare il prossimo anno, quando arriveranno sul mercato sia Oculus, questo prodotto molto atteso, anche questo di proprietà di Facebook, e anche altri prodotti, fra cui quello di Sony. Tutti dicono che sia un ottimo prodotto, molto atteso dal mercato. Oggi, lo ricordiamo, ci sono sostanzialmente visori per la realtà virtuale nei quali va inserito uno smartphone che fa da display. mentre questi che sono attesi per il prossimo anno hanno tutto integrato e uno se li indossa e ha questo, questa sensazione di essere immerso in una realtà virtuale. Digital News. BlackBerry ha confermato che presto arriverà sul mercato, pensate, uno smartphone Android. Avrà anche la tastiera scomparsa, comunque sarà uno smartphone touch con sistema operativo Android. Il comunicato ufficiale di BlackBerry, che è uscito questa settimana, dice che questo smartphone, che si chiamerà Priv, unirà il meglio della sicurezza e della produttività del marchio BlackBerry insieme al vasto ecosistema di app mobile, quindi le applicazioni della piattaforma Android. E sicuramente questo è molto atteso dal mercato, perché una delle cose interessanti e ancora oggi ineguagliate da altri sistemi è proprio l'aspetto di produttività. Molte gestures, come si dice in gergo, molte modalità con cui vengono fatte le cose sulla piattaforma BlackBerry sono inarrivabili, eccezionali. Insomma, da questo punto di vista BlackBerry non l'ha ancora battuta nessuno. Io l'ho provate tutte e non c'è storia. Ultima notizia riguarda Samsung, che non può certo brindare molto per come va il settore mobile degli ultimi terminali. Festeggia invece il servizio di pagamenti tramite smartphone Samsung Pay, che in attesa di essere lanciato negli Stati Uniti tra poco, è stato appena lanciato in Corea del Sud in agosto, sono state oltre 1,5 milioni le transazioni effettuate tramite questo servizio e sono stati scambiati 26 milioni di euro, un successo, dice l'azienda, oltre le attese. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco la nostra seconda parte che abbiamo realizzato dallo spazio Emilia-Romagna ad Expo Milano questa settimana. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Ed eccoci, come annunciato, siamo nello spazio Emilia-Romagna, siamo ad Expo, questa è una trasmissione che abbiamo registrato questa settimana. Bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, ci raggiungete a 2024@radio24.it. In questa parte ci dedichiamo naturalmente anche ai temi di Expo, ma come sempre facciamo parliamo di tecnologia, quindi come la tecnologia può aiutare il pianeta ad alimentare miliardi di persone, come la tecnologia può aiutare il mondo dell'agricoltura. Due esempi nei prossimi minuti assieme a Marco Porcaro, che è fondatore e amministratore di Cortilia.it. Marco, benvenuto. Grazie per l'invito. Potrei dire bentornato, perché tu hai già partecipato qualche anno fa. Sai che a volte gli ascoltatori ci chiedono: ma le startup che presentate a 2024 poi che fine fanno? Beh, voi state crescendo e siete diventati un'azienda abbastanza strutturata. Subito che cosa fate? Beh, siamo un mercato agricolo online sostanzialmente, mettiamo in contatto produttori e consumatori e ci occupiamo anche della consegna a domicilio, quindi permettiamo a chiunque di fare una spesa da casa, da un tablet, da un PC, e ci occupiamo di portare questa spesa di frutta, verdura, carne e formaggio a domicilio di chi ha effettuato quest'ordine. Voi dite: noi siamo specialisti della filiera corta, non dell'ultimo miglio, sono due cose diverse, giusto? Diciamo che la nostra specialità legata all'ultimo miglio è più legata a una questione di logistica, cioè che ci occupiamo anche di portare con i nostri furgoni la spesa a domicilio. Per quanto riguarda la filiera corta, per noi il nostro focus è proprio sul dare massima visibilità e tracciabilità sul prodotto e sul produttore stesso, in modo tale che il consumatore abbia piena consapevolezza di cosa sta acquistando e da chi lo sta acquistando. Allora, siete attivi in Italia, giusto? Sì, siamo attivi prevalentemente in Nord Italia, in Lombardia e Piemonte, ma presto apriremo anche in altre città. Anzi, esattamente dal 6 ottobre faremo le prime consegne a Bologna e a Modena. Molto bene, visto che siamo nello spazio dell'Emilia-Romagna ad Expo, è una buona occasione per annunciare questa apertura. Poi ti farò delle domande e cercheremo di capire qual è il ruolo della tecnologia, come la tecnologia e in particolare l'e-commerce supporta il lavoro degli agricoltori, quale chance esiste per gli agricoltori. Saluto anche Stefano Sgrelli di Salt and Lemon. Buongiorno. Anche noi ci siamo conosciuti da un po' di tempo. Voi vi occupate di droni. Esatto, sì. E poi capiremo perché parliamo di droni e di agricoltura. Noi ci siamo conosciuti quando quasi nessuno parlava di droni, oggi tutti parlano di droni. E allora ti vorrei fare subito una domanda proprio sul mondo dei droni che è letteralmente esploso. Stiamo un po' esagerando? È vero, eh? È vero, è esploso in questi ultimi anni perché mediaticamente non c'è quasi giorno che su un giornale, su una rivista non si parli di questi prodotti. È vero che questa è una tecnologia che ha un futuro brillante e che permette di fare talmente tante cose, talmente tante applicazioni che nessuno dubita del futuro. Il presente è chiaro che è un futuro, è un presente da pionieri, è un presente fatto di tanti anche investimenti, no? Per convincere poi chi potranno essere gli utilizzatori della bontà di queste tecnologie. C'è sempre un periodo, no, sperimentale. Noi adesso vogliamo assolutamente uscire dalla sperimentazione e passare all'applicazione pratica, dove veramente sì, i vantaggi di queste tecnologie si possono vedere. Tu mi hai detto, e mi ha colpito questa tua affermazione, che il futuro dei droni, o comunque buona parte del futuro dei droni, sarà nell'agricoltura. Sì, questo è quello che è uscito da diverse ricerche di mercato, di cui alcune ancora molto famose, come il MIT, per esempio, americano, che trovano che l'agricoltura sarà uno dei settori che maggiormente trarrà beneficio. Ed è in effetti uno dei settori che anche noi stiamo sperimentando di più e da lungo tempo. Quindi sicuramente in agricoltura i droni possono dare tanti vantaggi all'agricoltore, perché la visione dall'alto permette di vedere puntualmente un campo nella sua interezza, mentre invece diciamo oggi, quando si fanno delle analisi anche approfondite su un campo, si fanno necessariamente a campione, perché non è che si può andare in una risaia, per esempio, che è il settore dove noi abbiamo fatto più sperimentazioni. Sarebbe molto difficile fare delle analisi puntuali metro per metro dentro una risaia. Il drone dall'alto riesce a vedere invece e a dare una visione complessiva dell'intero campo e quindi permette un approccio, diciamo, globale all'intera coltivazione e permette di dare vantaggi tipo un minore utilizzo di sostanze chimiche, quindi un risparmio per l'ambiente, un risparmio per il coltivatore, l'agricoltore. Certo, si spendono meno soldi anche e poi magari si ottengono dei prodotti migliori. Stiamo parlando di una cosa che si chiama agricoltura di precisione. Ti faccio dire una cosa sui droni, perché diamo per scontato che tutti sappiano che cosa sono i droni. I droni sono degli elicotteri a più rotori, per semplificare molto. Sì, oppure ci sono anche dei droni ad ala fissa, solo che in Italia la normativa è un po' restrittiva e quindi diciamo l'utilizzo dell'ala fissa oggi è un po' limitato per problemi normativi, ma diciamo in paesi come l'America, come l'Australia, dove invece le coltivazioni sono assolutamente di dimensioni si usano molto, delle specie di aeroplani. Si usano degli ala fissa, cioè delle specie di aeroplani che vanno più veloce e quindi permettono di coprire un territorio più ampio. Che cosa si fa con i droni normalmente? Cioè oggi sul mercato voi non vi occupate solo di agricoltura? No, noi siamo addirittura, noi nasciamo nel mondo della produzione cinematografica, quindi noi utilizziamo molto i droni per il cinema, la pubblicità, gli spot, la promozione turistica, questo tipo di riprese dove la ripresa aerea dà molto affascinante. Molto bene, poi torniamo al mondo dei droni. Marco Porcaro, allora torniamo su Cortilia.it. Voi siete attivi appunto in alcune città, siete partiti da Milano, giusto? Corretto. In Lombardia, Piemonte e prossimamente anche a Bologna e a Modena. Che cosa si trova su Cortilia.it? Ma inizialmente, prevalentemente frutta e verdura. Diciamo che il nostro focus è quello di portare prodotti freschi dalla campagna a tavola tutte le settimane, quindi anche con una modalità abbastanza originale, che è quella del box in abbonamento. Però si possono trovare anche carne, formaggio, vino, birra, tutte quelle produzioni che il territorio produce in maniera artigianale, e il nostro obiettivo è quello appunto di valorizzarle e dargli una visibilità, una distribuzione che magari fanno fatica ad avere, e soprattutto aiutando i produttori a raccontare la passione con la quale producono questi prodotti, perché anche una zucchina o un'insalata, che potrebbe essere un prodotto banale, dietro ha una storia, ha un produttore, ha delle scelte anche di vita che rendono più consapevole il processo di acquisto da parte di chi la compra e creano una relazione molto forte tra produttore, cibo e consumatore. Sì. Tu pensi, voi siete un mercato sostanzialmente, pensi che un agricoltore da solo possa andare su internet e fare e-commerce da solo, o comunque l'e-commerce richiede tutta una serie di competenze per cui vincono gli aggregatori. Voi siete un aggregatore di tanti agricoltori, di tante aziende agricole sparse sul territorio. Ma io penso che ci sia spazio per diversi tipi di esperienze anche sull'e-commerce. Poi dipende dall'agricoltore, dal background dell'agricoltore in termini di capacità, ma penso che per determinate produzioni con nicchie, con una valenza, diciamo, che possa essere riconosciuta anche al di fuori del proprio territorio a livello, sì, anche nazionale o internazionale addirittura, ci possa essere questo tipo di spazio. Richiede chiaramente grandi investimenti, sì, per prodotti come quelli che offriamo noi, freschi, dove la logistica ha dei costi molto elevati e la complessità anche di tutta la gestione del processo d'acquisto è abbastanza complesso, magari gli investimenti sarebbero troppo alti, c'è una barriera all'ingresso troppo alta per un singolo agricoltore per entrare in un mercato e avere una propria distribuzione, sì. Voi risolvete il famoso problema delle varie dei vari passaggi dello zucchino oppure di altri tipi di prodotti, perché una delle grandi polemiche nel mondo dell'agricoltura e della grande distribuzione è che ci sono talmente tanti passaggi per cui l'agricoltore guadagna poco, mm-hmm, dell'euro che magari io spendo in negozio. Certo. Nel vostro, diciamo, caso c'è un passaggio solo, perché voi quasi sempre sì, al massimo compriamo da cooperative, consorzi che si aggregano, sì, e poi per creare questo volume, questa massa per abbattere questi costi logistici, appunto, che diciamo è uno dei constraint più forti. Ma chiaramente noi non solo compriamo dall'agricoltore, ma tendenzialmente compriamo dagli stessi agricoltori. E quindi non c'è questo trading giornaliero che c'è su altri modelli distributivi sul prodotto, e quindi tendiamo a creare una relazione molto forte con il nostro produttore, che è anche inglobato nel nostro processo di distribuzione, quindi non solo ci vende un prodotto ma partecipa nel confezionamento, in tutto il processo di, si direbbe, di supply chain della, sì, distribuzione, che è una cosa complicata. Sì, diciamo che sì, per riuscire a fare con una certa efficienza è abbastanza complicato. Perché io posso farmi una cassettina, perché tu hai citato l'abbonamento, ma io posso anche fare una cassetta di frutta e verdura una volta ogni 3-4 mesi. Esatto, cioè hai la possibilità di fare un acquisto singolo e, esatto, soprattutto o in abbonamento, e comunque in entrambi i casi hai la possibilità di aggiungere prodotti a piacere. Ecco, dicevo, io posso comporre quella cassetta mettendoci carote, arance, eccetera, eccetera. Carne, formaggio. Cereali, biscotti, salumi. Esatto. E quindi questo crea una grossa complessità in termini di gestione, sì, lungo tutto il processo sostanzialmente, cioè lungo la filiera, da, sì, chi poi ti vende il prodotto, poi alla ventilazione del prodotto, in modo tale che nella cassetta del signor Rossi finisca il prodotto che effettivamente è ordinato e che gli venga consegnato a domicilio nelle modalità, nei termini concordati. Quanti sono gli agricoltori, le aziende agricole che sono collegate a questa catena logistica? Adesso pubbliche, non pubbliche, nel senso che poi alcuni agricoltori partecipano sulla piattaforma in base alla stagionalità. Faccio degli esempi, i produttori di arance inizieranno a breve, sì, ad essere presenti all'interno. Hai citato il produttore di arance ed è il motivo per cui prima avevo detto c'è differenza tra la filiera corta e l'ultimo miglio, perché naturalmente le arance in Lombardia non possono arrivare dall'ultimo miglio, no, perché non ci sono. Però diciamo, accorciate il più possibile la filiera. Esattamente, esattamente. E per rispondere alla tua prima domanda, ci sono più o meno 50 produttori in questo momento sulla piattaforma e stiamo crescendo proprio, sì, se ne aggiungono ogni mese di nuovi, un po' per coprire le aree geografiche nuove che andiamo a coprire. Ad esempio parlavamo di Modena e Bologna, ci sono coinvolti dei produttori locali ovviamente. E più ci sono questi prodotti dove noi andiamo a cercarci queste eccellenze nazionali, Sicilia, Ragusa, arance biologiche in questo caso, da inserire all'interno del nostro mercato, in modo tale da proporre questi prodotti anche su territori che non sono vocati per questo tipo di produzione, ovviamente, sì, come l'arancia. Ti faccio un'ultima domanda prima della pausa che abbiamo, poi riprendiamo il discorso anche sui droni. I prezzi, ma riuscite a fare dei buoni prezzi? Io la so la risposta, però sì, devi dare tu. Io di solito facciamo dei prezzi giusti, secondo me, giusti rispetto alla filiera che c'è, al produttore, proprio per rispondere alla domanda che facevi tu. Cioè, chiaramente andiamo a cercare dei prodotti di qualità molto più alta di quelli che si trovano distribuiti solitamente, quindi partiamo già da un prodotto che mediamente ha un livello molto più alto di quello che si trovano su altri canali di distribuzione, e poi tentiamo di valorizzare tutta la filiera in modo tale che anche al produttore, come dicevi, la domanda che mi facevi tu inizialmente, abbia un valore aggiunto nel vendere attraverso la piattaforma, sì, ma a vantaggio anche di consuma, perché chi consuma trova un prodotto di qualità molto alta e distribuisce un valore, cioè tra sé e l'agricoltore, sì, che fa questa produzione. Allora, certamente do la mia risposta, ho fatto delle analisi, ho chiamato mio padre, che sa tutto di questo settore, ho detto no, i prezzi ci sono, sono buoni. Devo dire naturalmente che se uno va dal contadino in campagna, però questo non è il vostro scopo, voi vi rivolgete a chi abita in città e unite la città con il territorio circostante. No, è corretto, è assolutamente corretto, quindi uniamo la campagna col circo orientante, ma abbiamo anche dei prodotti che sono molto competitivi rispetto ad altri canali come la grande distribuzione. Sì, e quando ce li abbiamo? Quando siamo nel periodo di massima stagionalità, cioè nella stagione, quindi massima produzione, e quindi quel prodotto dice, come andare dal contadino. Esattamente. Bene, ci fermiamo, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, state ascoltando la nostra parte della trasmissione che questa settimana è stata realizzata ad Expo nello spazio Emilia Romagna di Expo 2015. 2024. Riprendiamo questa puntata da Expo Milano nello spazio Emilia Romagna in Expo, dove questa settimana Radio 24 ha trasmesso buona parte dei programmi. Sapete che questa settimana tra i protagonisti di Expo c'è stata l'Emilia Romagna e noi abbiamo partecipato a questa settimana. Questa è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter e naturalmente vi ricordo sempre il podcast della nostra trasmissione, quindi vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. Sono con noi in questa puntata Marco Porcaro di Cortilia.it e Stefano Sgrelli di Salt and Lemon. Torniamo brevemente ai droni per spiegare come funziona questa agricoltura di precisione. Tu ci hai raccontato che con il drone si possono fare fotografie dall'alto, quindi si può avere una visione globale complessiva del campo dove poi vengono piantate le piante e poi l'agricoltore fa i prodotti che Marco Porcaro con Cortilia vende e porta nelle case. Tutto è collegato. Spiegaci meglio come funziona questa agricoltura di precisione. Sì. L'agricoltura di precisione è un settore ampio che non riguarda chiaramente soltanto l'utilizzo dei droni. Per agricoltura di precisione in generale si intende quando per la gestione della coltivazione si usano delle tecnologie più evolute, diciamo, della normale prassi e soprattutto ci sono dei dati numerici che poi vengono elaborati per ricavare degli indici. Quando si usa la tecnologia, quindi potremmo dire che anche i trattori magari in Italia è poco utilizzato, ma dove ci sono grandi superfici ci sono trattori col GPS che riescono a non perdere nemmeno un centimetro mentre arano, perché se devono arare per 200 chilometri, se uno sbaglia di un centimetro ad ogni giro, alla fine sbaglia di metri. Sì, anche da noi cominciano a esserci queste tecnologie, non è che siamo diciamo troppo indietro. È chiaro che gli appezzamenti molto più piccoli che ci sono in Italia giustificano almeno l'utilizzo di queste tecnologie, ma oggi, proprio perché i droni hanno raggiunto dei prezzi che sono assolutamente abbordabili da un'azienda, per esempio, contadina. Sì. Stiamo parlando di alcune migliaia di euro? Sì, ecco. Ma poi di solito queste tecnologie in agricoltura vengono usate diciamo attraverso un meccanismo di conto terzi, tipo anche quel che è già conosciuto, per esempio la mietitrebbia, questi enormi macchinari che costano centinaia di migliaia di euro, non vengono comprati dal singolo contadino, ma vengono affittati quando servono. Ecco, il sistema dei droni è un po' lo stesso, si affitta un servizio che produce dei risultati che poi il contadino applica nella sua coltivazione, quindi questo è un po'. La tecnologia sostanzialmente sono delle foto all'infrarosso, nel nostro caso utilizziamo queste foto all'infrarosso che vengono diciamo confrontate con le foto nel visibile attraverso degli algoritmi che producono degli indici. Uno dei più famosi si chiama indice di vigore, detto anche NDVI. Questo indice è strettamente correlato alla quantità di clorofilla che la pianta contiene al suo interno. Siccome più una pianta è salubre, più è vivace, più è forte, più contiene clorofilla, valutare la quantità di clorofilla equivale a valutare la salute in qualche modo della coltivazione. Adesso la sto semplificando un po'. Allora, noi fotografando il campo vediamo le zone in cui è più forte e le zone in cui è più debole, e quindi noi diciamo prescriviamo alla macchina che poi spargerà il concime di erogare più concime, fertilizzante nelle zone un po' più critiche e meno o addirittura zero. Noi nell'ultimo esperimento appunto quest'anno siamo riusciti a fare un progetto veramente concreto con queste coltivazioni di riso della Kellogg's e in queste risaie abbiamo praticamente dato delle prescrizioni attraverso chiaramente non solo noi che siamo specialisti dell'area ma anche noi siamo un team sì. che è composto grosso modo da tre diciamo tipi di competenze. Noi che siamo gli esperti della roba che vola, ci sono degli esperti di elaborazione delle immagini e poi ci sono gli agronomi che interpretano questi dati e ne traggono le conclusioni. Sì. Però la Kellogg's cosa ha fatto? Allora ricordiamo che la Kellogg's è questa grande azienda che vende cereali, in tutto il mondo, sì. anche prodotti che si usano a colazione in tutto il mondo e ha produzioni locali in ogni molte paese, nazioni, anche in Italia. Anche quindi. In Italia. Quindi produce localmente una parte della sua produzione. E loro hanno un progetto che è volto a un'agricoltura un po' più diciamo compatibile col territorio, un po' meno invasiva nei confronti dei prodotti chimici, nei confronti dell'ambiente e chiaramente ci tengono anche però nello stesso tempo che il prodotto sia elevato, la produzione sia elevata e non abbia a soffrire da eventuali trattamenti mancanti. Sì. Noi abbiamo quest'anno fatto le prime prove diciamo realistiche, quindi alcuni campi sono stati diciamo gestiti tramite queste elaborazioni che abbiamo fatto noi e in questi campi siamo riusciti a dare una quantità di fertilizzante del circa mediamente del 30% in meno rispetto ai campi campione, ai campi test che sono stati coltivati nella maniera tradizionale. Sì, quindi meno inquinamento, meno soldi. Meno soldi da spendere, esatto. Sì. E, proprio in questi giorni c'è stato il raccolto, che quest'anno è stato un po' tardivo. E, il risultato è stato, e qui siamo stati veramente contenti, che siamo riusciti ad avere 93 kg per ettaro contro i 90 kg per ettaro del campo campione diciamo, del campo tradizionale. Quindi abbiamo dimostrato, e per questo il progetto andrà avanti anche nei prossimi anni, che attraverso questi mezzi si riesce da un lato a ridurre i trattamenti e quindi a tutte queste diciamo vantaggi, ma non si sacrifica il raccolto, nel senso che si ottengono risultati pari se non superiori alla coltivazione di tipo tradizionale. Bene, torniamo all'e-commerce con Marco Porcaro di Cortilia. Marco, ti faccio una classica domanda da e-commerce. Quando si parla di e-commerce uno si cita spesso uno dei freni il pagamento, cioè le persone si fermavano o non so adesso se si fermano ancora al momento del pagamento perché è una cosa complicata. La vostra esperienza qual è? Che è ancora così purtroppo. È ancora così. Mi confermi? Ti confermi quello che si dice? Speravo che fossero cambiate le cose. Devo dire che c'è una predisposizione sempre più forte verso questo tipo di acquisto online, cioè legato alla carta di credito. Sì. Ad esempio su Cortilia abbiamo fatto una scelta molto forte che è quella di non accettare pagamenti in contrassegno, in contanti, ma solo pagamenti con carta di credito. Bravissimi. Beh, esatto. Per vari tipi di motivi. Il principale è per un motivo di efficienza nel processo, perché se dovessimo gestire, essendo prodotti deperibili e freschi, se dovessimo gestire il pagamento in contrassegno, in contanti alla consegna, i tempi di delivery si allungherebbero particolarmente e renderebbero assolutamente ingestibile il servizio e quindi estremamente costoso. Comunque ancora oggi questo è un vincolo. In Italia sì. Sì. Sono molte le famiglie che hanno l'abbonamento, quindi ogni che ne so, due o tre giorni ricevono una bella cassetta di frutta. Sono sempre di più e ti dico anche questo, recentemente abbiamo premiato, visto che è un po' che ci conosciamo e sai che stiamo crescendo, proprio per dare una percezione di continuità di sviluppo dell'azienda che da startup diventa una realtà, abbiamo premiato dei nostri clienti che hanno iniziato a fare più di 100 spese su Cortilia, quindi è da più di 2 anni e mezzo praticamente, che fanno una spesa per arrivare a quel tipo di frequenza, vuol dire che la fanno tutte le settimane, sostanzialmente. Quindi si sono fidelizzati particolarmente. Per rispondere anche agli ascoltatori che sono preoccupati delle storie delle startup che raccontiamo, voi siete già arrivati al famoso break-even? Siete già profittevoli? No, e non è il nostro obiettivo esserlo a breve, perché stiamo crescendo molto, vogliamo investire ancora tanto, perché il mercato è veramente grande, abbiamo una grossa opportunità e quindi siamo in una fase di completo investimento e per scelta. Voi avete ricevuto anche finanziamenti da alcuni venture capital. Esattamente, e per scelta abbiamo deciso di usare la leva finanziaria per crescere. Quanto tempo ci impiegate per portarmi a casa la frutta e la verdura? Dalle 48 alle 72 ore sostanzialmente, che in base alle giorni, cioè ad esempio quando è lunedì, diciamo che è il periodo della giornata un pochino più critica, essendoci in mezzo weekend. Questo perché gran parte del prodotto, diciamo, lo vendiamo e soprattutto lo distribuiamo solo una volta che è stato acquistato dal cliente, l'utente, e quindi tutto il processo richiede un certo tempo, quindi viene raccolto dal campo e distribuito questi sono i tempi necessari. Anche se il nostro obiettivo poi è andare strada facendo, aumentando i volumi, riuscendo a creare efficienza, a ridurre questo tempo d'attesa dall'ordine alla consegna, perché diciamo il mercato, la domanda va, ecco, il cliente è... Tu credi che si possa arrivare, sai, negli Stati Uniti ci sono questi tentativi di fare la consegna in giornata, pensi che si possa arrivare a questi livelli? Dipende, si può arrivare, dipende che tipo di acquisto si fa su determinate categorie merceologiche, determinati prodotti, si può arrivare ad avere questo tipo di acquisto, non ad avere la spesa, diciamo, personalizzata. Cioè se compro 4 pomodori no, perché sennò si va a finire in un modello che richiede, che stravolgerebbe un po' la nostra filosofia. Dove tra le difficoltà che voi dovete che avete affrontato ormai, voi non utilizzate i corrieri, perché molti siti di e-commerce usano il hanno come terzista, come prima diceva Sgrelli, ci sono servizi di ogni genere al mondo, quindi io mi rivolgo al corriere che mi porta la merce, quindi mi devo, insomma, non me ne interesso di quella cosa. Voi invece cosa avete? Mezzi propri? È un'ottimissima domanda, nel senso che il grosso dell'investimento da qui la ricerca di finanziamenti che noi gestiamo, abbiamo una flotta nostra, cioè sempre gestita da fornitori terzi ma brandizzata Cortiglia, che ci occupiamo proprio dell'ultimo miglio, quindi perché vogliamo offrire un servizio al cliente che deve avere la catena del freddo, una catena del freddo a 0,4 gradi, che quindi la carne deve essere trasportata a temperatura controllata. Sul mercato non c'è disponibilità di questo tipo di offerta di servizio, quindi ce la siamo dovuta costruire da zero e la stiamo facendo diventare un nostro asset in termini di un valore aggiunto, perché diamo la possibilità al cliente non solo di dirci in che fascia oraria vuole la spesa, ma gli comunichiamo puntualmente al minuto quando effettivamente bussiamo alla porta di casa. E questo è un servizio a valore aggiunto molto apprezzato dai nostri clienti, andandoci tutte le settimane. Io posso seguire, cioè io sono in casa che faccio altro e vedo che sta arrivando il furgone. A breve sì, in questo momento ti diciamo via mail, quando alla chiusura degli ordini, a che minuto stimiamo di essere a casa tua. Ah, pensa a te, questo non la sapevo. Chiaramente ci sono delle tolleranze legate al traffico. Certo. E alle... Senti, visto che c'è Sgrelli che si occupa di droni, faccio la domanda, poi magari se Sgrelli vuole dire la sua, pensi che nei prossimi anni, magari anche quando i regolamenti cambieranno, perché ci sono anche dei vincoli regolamentari più che tecnologici, che la consegna via drone possa essere una possibilità, o è una panzana che si inventano quelli che vogliono fare, che seguono le mode? No, secondo me è possibile, però la prevedo su gomma, non su... veicoli a guida autonoma. Esattamente. Interessante. Sgrelli, tu pensi che possa essere vera questa cosa? Magari in zone remote di montagna. Diciamo, la consegna via drone ha suscitato grande interesse. Ricordiamoci Amazon che fece quello scoop ancora un anno fa, dicendo che lei avrebbe consegnato il 30% dei suoi pacchetti via drone. DHL e altri grossi, diciamo, aziende stanno sperimentando. Oggi come oggi la realtà è che esistono solo delle tratte sperimentali che servono soprattutto in luoghi molto sperduti, tipo isole del mare del nord, difficilmente raggiungibili. Hanno messo in piedi questo tratta sperimentale per la consegna di cose urgenti, tipo medicinali, cose di prima necessità. Quindi non è una cosa che io vedo a breve, però secondo me nel giro di 5-10 anni questa sarà una tecnologia che diventerà disponibile e che potrà essere utilizzata, non così diciamo su vasta scala, perché parlando di Amazon parliamo di milioni di pacchetti e francamente milioni di droni che girano per la città, la vedo un po' complicata. Senti, insomma, tu hai detto, hai citato un orizzonte da qui a 5 anni, anche prima di iniziare questa puntata di 2024 parlavi della grande evoluzione tecnologica che ti aspetti nei prossimi anni nel settore dei droni. Sì. In che termini? Sì, sì, sì. Oggi i droni sono già pronti per fare molte attività, però esistono dei limiti tecnologici che ancora possono essere, diciamo, migliorati. Per esempio il volo autonomo, cioè per esempio per la consegna di pacchetti o di altri, diciamo, tipi di attività, non è pensabile che ci sia sempre il pilota a comandare un drone, perché questo renderebbe vana almeno una parte dei benefici dell'utilizzo di un sistema automatico, che è un requisito oggi richiesto oggi dalle regole. È obbligatorio. Pilota e volo a vista, cioè nel senso che il drone non si può allontanare più di quanto il pilota non riesca a vederlo. Sì. Questi limiti verranno superati quando esisteranno degli autopiloti, cioè quando dei computer di bordo che sono in grado di gestire in autonomia il volo completo, comprese le eventuali imprevisti, perché certo, il problema del volo automatico oggi è già risolto, però non esistono ancora delle tecnologie affidabili per risolvere gli inconvenienti, ovvero sia la possibile collisione fra due droni in volo oggi può essere risolta solo dal pilota che se ne accorge e fa delle manovre per evitarlo, certo. Quando esisterà una tecnologia, e oggi ci sono già studi molto avanzati, allora veramente il volo diventerà autonomo, cioè nel senso il drone prenderà delle decisioni e farà del suo meglio per arrivare sano a consegnare, diciamo, o a fare la sua attività. Per cui sicuramente nel giro dei prossimi anni usciranno queste tecnologie e per uscire, io dico uscire a livello industriale, perché i militari già ce l'hanno queste tecnologie, certo. Però sono dei costi che non sono distinti da un mondo civile. Hai fatto bene a dirlo, molto spesso 2024 diciamo non si può fare ancora questa cosa. E puntualmente gli ascoltatori, giustamente, che sono particolarmente attenti, ci scrivono e dicono: no, guardate che si può fare questa cosa. È vero quello che tu dici, cioè alcune cose si possono fare in ambito militare o in alcuni ambiti in cui ci sono molte competenze. E invece noi puntiamo a che le tecnologie siano disponibili per le masse in modo semplice e facile. Io compro una cosa e funziona, così deve funzionare. Siamo a Expo, il padiglione più richiesto con file incredibili è quello del Giappone. Volevo farti una, ci sono file di 3 ore, 4 sì, ore, 5 ore, cose pazzesche, bellissimo. I giapponesi sono un popolo straordinario e sui droni sono, senza che molti lo sappiano, numeri uno nell'agricoltura. Esatto, sì. In Giappone già da anni si usano dei droni, degli elicotteri controllati da remoto per la risaia, per la coltivazione di risaia, e addirittura la Yamaha è numero uno al mondo nella produzione di questi droni di tipo industriale, ne ha venduti più di 6.000 che vengono usati in Giappone per la risicoltura. In particolare loro lo usano per la distribuzione di fertilizzante, quindi con delle, diciamo, bocce che contengono questi liquidi che vengono spruzzati sul terreno, ma vengono usati anche per fare altri tipi di trattamenti. Loro l'hanno fatto senza, diciamo, e lo utilizzano in maniera diciamo ormai normale, così come l'agricoltura di precisione in paesi come l'Australia e l'America è già molto avanti. Lì, date le distanze, date le ampie superfici, è stata fatta da sempre con gli aerei, sì, con certo, gli elicotteri, perché la dimensione giustificava anche l'investimento. Oggi siamo pronti e quindi il mio auspicio è che noi dobbiamo passare e stiamo passando dalla fase di sperimentazione, quindi dai lavori con le università, con gli istituti di ricerca, eccetera, ai lavori veramente produttivi. Sì. Cioè, siamo pronti e dobbiamo fare questo salto. E molto dipende da poi le trasmissioni come la tua che rendono queste cose evidenti, perché non tutti sanno che oggi i droni non sono solo quei giocattolini che si comprano al negozio con cui rompi i vetri delle finestre del vicino o fai queste robe qua, sì, ma sono degli oggetti da lavoro e non sono esperimenti, sono prodotti che possono dare già oggi degli ottimi risultati in produzione. Sì, sì. Marco, diamo qualche informazione agli agricoltori, perché abbiamo parlato di tutto quello che voi offrite al consumatore che vive in città e si può o abbonare oppure acquistare una tantum, una cassetta di frutta, verdura, formaggi, eccetera, eccetera. Chi sono gli agricoltori? Cioè, qual è l'agricoltore che, certo, può agganciarsi al sistema, al network di Cortilia? Grazie per la domanda. Per noi gli agricoltori sono importantissimi, sono al centro del nostro progetto. Io l'ho fatta per gli agricoltori, esatto, la domanda, sì, visto, sì, che siamo a Expo e l'agricoltura è un asset, è fondamentale per il tema di Expo, ma diciamo per la nostra vita, se riusciamo a mangiare meglio, insomma, positivo per tutto, per la nostra vita, il sistema sanitario, bla bla bla. Beh, gli agricoltori più adatti per un progetto come Cortilia, per essere valorizzati attraverso Cortilia, sono agricoltori medio-piccoli che hanno una grossa passione in quello che fanno, che hanno quindi una storia da raccontare, non solo un prodotto eccezionale che diciamo è la base per, sì, entrare all'interno del progetto, ma anche una grande voglia di raccontare, di raccontarsi, di raccontare come producono e cosa fanno. E il nostro obiettivo, il nostro supporto che diamo a questi agricoltori è proprio nello sviluppare questo racconto attraverso i media digitali. Far percepire a un cliente che un'altra delle barriere all'ingresso che abbiamo è quello del scetticismo sul comprare cibo in remoto, sostanzialmente, soprattutto prodotto fresco. Quello che stiamo tentando di fare nel nostro piccolo è di valorizzare, appunto, facevo l'esempio dell'insalata, di fargli percepire il profumo dell'insalata attraverso internet. Questa è una sfida che sa di utopico, ma abbiamo delle storie talmente forti, abbiamo dei produttori talmente incredibili, che quello che facciamo noi è proprio tentare di raccontare, e quello che raccontiamo, come producono questi prodotti, come valorizzarli. Quindi un produttore agricolo che ha una passione, ha una produzione molto particolare, che ha delle tecniche particolari, che ha fatto delle scelte anche filosofiche, produttive di un certo tipo, può trovare attraverso la piattaforma Cortilia un ottimo strumento per valorizzare questo tipo di produzioni, per farsi riconoscere anche un premium price, diciamo, un prezzo, diciamo, sì, un pochino più alto rispetto, sì, a, sì, sì, perché trova un canale dove può raccontare, motivare quello che sta vendendo. Li trovate facilmente questi agricoltori? Li troviamo e li valutiamo e, sì, in alcune categorie più facili, in altre più complesso. Però sono giovani o ci sono anche dei meno giovani che comprendono le potenzialità dell'e-commerce, di internet? Ci sono varie generazioni, però ci sono anche delle start-up dell'agricoltura. Ho questo bellissimo progetto di questi ragazzi laureati in agronomia e agronomi, che sono partiti da zero comprandosi 7.000 bulbi di zafferano nella Brianza, si sono affittati un ettaro di terreno, l'hanno coltivato e hanno prodotto il primo zafferano lombardo e l'hanno messo in vendita attraverso la piattaforma Cortilia. Questo è un esempio di start-up dell'agricoltura, ma proprio dalla terra. E è un progetto meraviglioso e sono stato molto orgoglioso e contento di dargli la possibilità di vendere attraverso la piattaforma e di dare la possibilità ai nostri clienti, utenti, di poter comprare questo zafferano da questi, sì, giovani ragazzi che si sono inventati un lavoro veramente dalla terra. Sì, e quelli che diventano, che si agganciano al network di Cortilia, sono tecnologicamente un po' portati, cioè capiscono o non ci capiscono niente, si fidano perché voi dimostrate, insomma, che funziona? Beh, diciamo che la sfida che stiamo portando avanti con Cortilia è quella di educare sia il consumatore nell'acquistare online, sì, frutta e verdura, ma anche l'agricoltore. Quindi agricoltori che magari qualche anno fa avevano avuto l'intuizione ma non avevano la cultura e la capacità di utilizzare il mezzo, adesso si stanno educando, lo stanno valorizzando, lo stanno capendo e li stiamo accompagnando in questa nuova forma di distribuzione. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, abbiamo raccontato una parte del mondo dell'agricoltura che si trasforma naturalmente, la tecnologia in agricoltura è sempre stata utilizzata, diciamo che l'agricoltura è cambiata grazie alla tecnologia, però queste sicuramente sono tecnologie particolarmente nuove che si svilupperanno nei prossimi anni, perché Marco, immagino che voi vogliate, insomma, nei prossimi anni vogliate coprire quasi tutta Italia. Ci rivediamo presto, ti racconterò dove stiamo per aprire. Non mi vuole dire nulla. Grazie a Marco Porcaro per essere stato con noi, a presto. A presto. E grazie a Stefano Sgrelli per essere stato con noi. Buon lavoro in alto con, grazie, i tuoi droni. Grazie. Adesso noi proseguiamo sempre su questo tema per capire come la tecnologia, internet, l'e-commerce può essere una chance, un'opportunità, un canale alternativo per chi produce non solo sui campi, ma magari anche un forno che fa biscotti d'eccellenza in una delle 20 regioni italiane. Allora, Cristina Brondi ha fondato Delizie delle Fate, un sito di e-commerce che punta proprio a vendere in Italia e in EU e in Europa eccellenze dalle regioni italiane. È un'azienda molto piccola, è una one woman company, quindi sostanzialmente lei con pochi collaboratori. E Cristina, benvenuta a 2024. Ciao Enrico, ti ringrazio. Allora, innanzitutto spiegaci da dove nasce questa tua idea. Delizie delle Fate è un sito di e-commerce che si occupa di specialità italiane. Delizie delle Fate vorrebbe portare una delle cose che l'Italia ha come eccellenza, e cioè la capacità di avere del cibo, delle specialità assolutamente indiscutibili nel mondo, in particolare in Europa. Tu che cosa vendi e soprattutto dove sta la differenza rispetto a molti altri siti di e-commerce? Perché di siti di commercio elettronico che vendono prodotti italiani ce ne sono altri. Delizie delle Fate cerca di distinguersi da quella che può essere l'offerta di prodotti tipici italiani nel mondo, perché dà dei consigli al consumatore finale di come mettere insieme determinati prodotti collegandoli alla regionalità del prodotto stesso. Quindi ho inventato delle tavole regionali di diverse regioni italiane all'interno delle quali colloco i prodotti e li abbino in antipasti, in primi piatti e in dolci. Non solo il cliente può ordinare l'intera tavola, ma può anche solo ordinare un primo, un secondo, un antipasto, e gli viene proposto anche un abbinamento con vini e tisane in modo tale che possa realizzare un vero e proprio evento culinario regionale italiano a casa sua, senza doversi preoccupare di ricercare tutti i prodotti separatamente. Questo distingue Delizie delle Fate da altri siti e-commerce dove hai un'ampia scelta, ma in realtà hai un negozio e per ogni prodotto hai solo tante differenti referenze tra le quali sei in difficoltà nel scegliere e nell'abbinare. Magari un italiano lo sa già dove deve andare ad acquistare. Questa è un'idea soprattutto per chi non conosce il territorio italiano. Esatto, e su come abbinare. In più il fatto che Delizie delle Fate scelga accuratamente i suoi prodotti di alta qualità e li brandizza solo se ritiene che il prodotto è all'altezza del marchio Delizie delle Fate, appone il suo marchio e conseguentemente garantisce che quello che il cliente acquista non solo è della tipica regione italiana, ma è anche di una qualità eccellente. Quindi tu compri e metti la tua etichetta? Esattamente. Io non produco, perché nessuno potrebbe produrre una così meravigliosa e ampia scelta di prodotti tipici, certo, certo, e metterli insieme. Sì. Ti faccio una domanda sul concetto di cui si è parlato tanto su internet di disintermediazione. Un produttore, e ci sono tantissimi esempi di produttori di qualsiasi genere alimentare, e rimaniamo solo nell'ambito alimentare, che ne so, vino o altri tipi di prodotti che vendono direttamente. Il tuo caso, ma quello di tanti altri siti internet, dimostra in parte che forse questo mito della disintermediazione, non so se in alcuni casi certamente funziona, ma ha anche invece bisogno di esprimersi verso degli hub che intermediano e che quindi poi facciano un po' da guida, che raggruppino tanti prodotti come ad esempio nel tuo caso. Tu che cosa ne pensi? Cioè che ci sia anche chance per i prodotti venduti direttamente dal produttore? Penso di sì, assolutamente, perché ci sono un sacco di produttori che fanno degli ottimi prodotti, ma il cliente, soprattutto straniero, deve conoscerli e deve sapere che cosa va a cercare, e sa che compra, come dire, uno specifico prodotto. Hai citato il vino, possono essere prodotti da forno, possono essere magari solo tutto funghi. Invece oggi il fatto di mettere insieme e raggruppare le esperienze di tanti produttori e unirle in questo progetto secondo me è vincente, perché semplifica il tempo di chi compra online, non è tanto, e quindi se deve andare a crearsi questo evento culinario e a comprare singolarmente tantissime cose, perde molto più tempo, ha un sacco di pratiche di checkout, di pagamenti differenziati, con sito di diritto delle fatte può mettere insieme queste esperienze. Ciò non toglie che l'unicità di tante produzioni italiane possono esistere e hanno successo anche nella loro, come dire, settorialità. Sì, è direttamente dal produttore. Tu hai trovato particolari difficoltà nel lanciare un sito internet di questo genere, perché bisogna preoccuparsi sia dell'aspetto tecnico, cioè del sito internet, dell'esperienza utente all'interno del sito, dei pagamenti, della consegna dei prodotti, della logistica e poi naturalmente della scelta dei prodotti. E ricordiamo, non l'abbiamo ancora detto, ma è importante, di fatto l'azienda sei tu. Ritengo che ci vogliono ovviamente delle doti manageriali per comprendere quali sono tutti i processi necessari. Ovviamente l'idea è fondamentale, ma oggigiorno abbiamo la possibilità di avvalerci di fornitori specializzati in ogni pezzo del processo, tra virgolette, di commercializzazione. Quindi non sono io che effettivamente, io devo poter avvalermi di un buono spedizioniere, io devo potermi avvalere di un buono studio per la realizzazione del sito, ma alla fine e l'idea è la coordinazione di tutto questo. Io devo fare gli accordi con le banche per i pagamenti, ma le banche, chi gestisce il sito e tutti i fornitori di logistica e quant'altro sono altamente specializzati e lo possono fare molto meglio di me. Il mio è un lavoro di coordinamento. Sì, hai trovato tutto ciò difficile o sul mercato c'è una buona offerta di tutti questi tasselli che poi vanno messi insieme? L'offerta c'è, per ogni tipo di, diciamo, di fase del progetto sicuramente devi valutare almeno 2 o 3 alternative, però ritengo che insomma è una sfida che ci può stare e in tutto il mondo oramai hai tanta offerta e quindi l'importante è saper scegliere. Tu naturalmente sfrutti il Made in Italy, pensi quindi che ci sia una buona chance per chi produce Made in Italy e lo offre nel tuo caso in questa veste che ci hai descritto, soprattutto all'estero? Nel settore del food non ho dubbi, anche altri settori possono ancora essere importanti per l'Italia, ma senza dubbio il food è uno di quelli, ovviamente lo credo e ci conto. Molti progetti di commercio elettronico, ma anche in altro ambito web, sfruttano finanziamenti. In Italia i finanziamenti non sono tantissimi, il sistema dei venture capital è piuttosto ristretto, però ci sono molte start-up che possono contare su questo aiuto. Nel tuo caso è tutto autofinanziato e gli investimenti sono tutto sommato non milionari? No, assolutamente gli investimenti sono tutti miei in prima persona, non ho ricevuto nessun tipo di finanziamento e non ritengo, quantomeno in fase di partenza, di poter dire che siano delle spese dell'entità che citavi prima. È una cosa comunque fattibile, con un rischio quantomeno calcolato per un imprenditore, insomma. Bene, Cristina, noi ti auguriamo naturalmente in bocca al lupo e grazie per essere stata con noi. Ti ringrazio moltissimo e buona serata. E così concludiamo questa puntata di 2024. A proposito di finanziamenti, ho scoperto questa settimana che in questo settore, quello della gastronomia, quello della ristorazione mediata dal web, quindi anche ad esempio della consegna a domicilio di cibo, sta succedendo un delirio. In tutto il mondo stanno arrivando finanziamenti milionari, ci sono start-up non italiane che stanno ricevendo decine di milioni di dollari, decine di milioni, quindi stiamo parlando di una rivoluzione, quindi sicuramente torneremo a parlare di questo settore. Già in Italia ci sono delle aziende internazionali che sono molto capitalizzate, che stanno arrivando in massa, però io penso che ci possa essere chance per molti imprenditori italiani in questo settore. Bene, tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per averci ascoltato in podcast. continuate a scriverci, molti dei nostri ascoltatori ci ascoltano mentre corrono. Vi ricordo una puntata che abbiamo trasmesso quest'estate, ma che è stata apprezzata da molti ascoltatori. Abbiamo fatto un'intervista a Nicola Pecile, che è un neo pilota di Virgin Galactic, che è la società che a partire da 2017-2018 dovrebbe portare nello spazio, meglio nello spazio, nella, con un volo suborbitale, quindi per qualche minuto in assenza di gravità, molte persone, molti si sono anche già prenotati, e la potete riascoltare sul nostro sito internet. Abbonatevi al podcast, fate abbonare i vostri amici, i vostri parenti, i politici locali che conoscete, e noi ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're